Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Due di denari vi ascolto e magari risparmi un po'. Quei consigli della Rosciani e me assa sopravviverò. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Una base chitarrosa, dice, senti, Marco Lombardo. Senti come suonano bene queste chitarre. Con il plettro. Suonano così sì. Bene che potrebbero essere quelle sottratte, oddio, anzi sostituite all'ignaro locatario, all'ignaro inquilino. Per in questa vicenda milanese che devo dire è musical truffaldina, molto interessante. Tra l'altro anche un altro aspetto interessante al quale pensavo. Generalmente se c'è un signore o una signora, insomma se c'è qualcuno che affitta una casa a qualcun altro, in genere non la truffa, ma la disavventura si consuma perché è l'affittuario che non paga l'affitto, cioè proprio il massimo che può capitare. Ma tu puoi mai andare a pensare che la persona che ti affitta un edificio, una casa o un garage ti vada a rubare quello che ci hai messo dentro? Ma non proprio a rubare, cara Deborah, perché la vicenda è la seguente. Più allora, complicata. Venerdì scorso a Milano la polizia ha rinvenuto nell'abitazione di un italiano incensurato 57enne, sì, 11 chitarre. Del valore complessivo di 150.000 euro, quindi si tratta di chitarre di pregio, perché insomma siamo a più di 10.000 euro per chitarra, per strumento. C'era pure una Gibson SJ200 appartenuta ad Elvis Presley. E caspita, qui ci sarebbe da alzarsi in piedi. Ah, ecco, bravo, ok. Allora, cos'era successo? Questo signore, che era in possesso delle 11 chitarre in questo momento, le aveva sottratte a un musicista al quale aveva affittato un garage. Ma simpatico. In questo garage il musicista teneva le chitarre preziose, perché appunto c'era anche questo pezzo pregiatissimo di una chitarra appartenuta a Presley, e lui ha pensato bene di sostituirle con delle chitarre di minor valore, forse nella speranza che il collezionista se ne accorgesse, vabbè. Infatti, un mito. Purtroppo per lui se ne è accorto e sì, quindi adesso credo sia agli arresti. Intanto hanno fatto anche comunque una serie di perquisizioni per risalire a tutto, con una ventina di autorimesse tra Milano e l'Interland. E c'erano delle chitarre effettivamente di pregio, delle Martin, delle Valeriano Bernard, insomma, delle cose di grande pregio, che questo signore aveva pensato evidentemente di sostituire con pezzi un po' taroccati. Tra un l'altro, po' guarda, praticamente lui entrava in questo garage servendosi del proprio badge, quindi era anche un garage, diciamo, con una chiusura e apertura, tecnologicamente parlando, interessante. Quindi c'era una banale chiave. Insomma, è un po' come, diciamo, se lui avesse utilizzato lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, del quale peraltro parleremo tra pochissimo. Perché oggi ci concentriamo su una puntata che avevamo ampiamente annunciato. Allora, dal primo ottobre l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non rilascerà più i tradizionali PIN. Il PIN dispositivo. Esatto, ma accetterà soltanto per nuovi utenti la SPID, insomma quel sistema pubblico di identità digitale, quella specie di password unica che noi cittadini possiamo usare presso tutte le pubbliche amministrazioni. Esatto. E che abbiamo imparato a conoscere quest'estate, perché è stata molto utile, insomma, costruirsi la propria identità digitale per accedere a tutta una serie di bonus che sono stati varati appunto in questa piena tempesta degli ultimi mesi: il bonus vacanze, il bonus mobilità, eccetera. E quindi, insomma, dovrebbe essere un po' più facile per molte persone approcciarsi a questa identità digitale. Sì, allora, no? Giustamente tu hai usato il condizionale, il modo condizionale, ed è un utilizzo corretto e prudente da parte tua, perché è tutto molto semplice fino a che poi, come dire, non ci andiamo a misurare con la dura realtà. Esatto, tanto per dirne una di difficoltà, proprio un paio degli ascoltatori un paio di giorni fa ci hanno chiesto, visto che voi ne parlate spesso, abbiamo provato in famiglia a costituire la nostra identità digitale, ci hanno chiesto per esempio il riconoscimento facciale, è un aspetto che molti probabilmente non conoscono, e quindi oggi cercheremo di nuovo di ridare l'ABC ai nostri amici che ci seguono da casa per fare appunto la propria identità digitale. E ricordatevi che dal 1 ottobre, se dovete interloquire con l'INPS dal punto di vista digitale, appunto, vi accetteranno ancora per qualche tempo il vecchio PIN se già ce l'avete, ma se no dovete avere lo SPID. Tutto questo naturalmente potete commentarlo, interrogarlo e quant'altro con noi telefonando o al numero verde 800 24 00 24 oppure inviando un messaggio SMS o un messaggio con WhatsApp al 349 238 66. Poi se volete potete anche mandarci delle email, 2 di denari, scritto tutto a lettere, 2 di denari @radio24.it. Deborah, farei un rapido giornale radio del risparmio. Rapido mica tanto, perché guarda, abbiamo un sacco di notizie e poi dobbiamo dare la risposta all'ascoltatore che ci ha interpellato anche ieri, per cui direi di partire molto rapidamente. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Allora, io mi rendo conto che stiamo andando avanti a raccontare tutte le puntate di questa vicenda e magari non interessa a nessuno, però siccome così, insomma, ci appassiona noi, andiamo avanti. Vabbè, diciamo sul mercato intanto, è una bella notizia. Intanto tu ti sei rifatta Audrey proprio per rievocare Colazione da Tiffany, è un grande film che io riguardo ripetutamente. Ma penso che tu non sia l'unica anche tra i nostri ascoltatori a riguardare più volte Colazione da Tiffany. Allora, vabbè, che succede? Che qui più che Colazione da Tiffany volano gli stracci. Volano gli stracci a Tiffany. Perché? Perché adesso tra Tiffany e Hervé Mash si è passati alle vie legali, sostanzialmente. Agli avvocati, esatto. Sì. La questione è mano agli avvocati, perché il colosso francese del lusso ha fatto sapere che, appunto l'abbiamo segnalato ieri, non può portare a termine l'acquisizione, un'acquisizione che valeva 16 miliardi e spicci di dollari. Questa acquisizione, ha detto Hervé Mash, no, non la possiamo più fare. Allora Tiffany intenta causa a Hervé Mash presso un tribunale del Delaware, esatto, richiamando il gruppo francese agli obblighi contrattuali sulla fusione. A questo punto Hervé Mash risponde allo stesso modo, fa a sua volta causa a Tiffany, sempre nel Delaware. Tra l'altro il Delaware è un posticino dove si possono aprire società con una certa facilità, lo sapevi Deborah? No, lo scopro stamattina, se mi fa molto piacere, nel caso in cui mi servisse andrò là, cosa vuoi che se ti vuoi dico? Costituire una società facilmente, il Delaware è un ottimo indirizzo. Ecco. Comunque, nei documenti depositati, Hervé Mash si dice sorpresa per l'azione legale di Tiffany, certo, e definisce le accuse totalmente infondate. Me le immagino quanto saranno sorpresi di questo ricorso agli avvocati. Senti, allora, nel caso in cui mi dovesse servire di costituire una società in Delaware, posso certamente andare dal commercialista, perché hanno revocato lo sciopero che era previsto dal 15 al 22 settembre, quindi da martedì prossimo alle 22 settembre. La decisione è arrivata proprio in corner, in calcio d'angolo, in zona Cesarini, dopo un incontro fra sindacati, consiglio nazionale di categoria e rappresentanti del Ministero dell'Economia, che ha accolto le richieste avanzate dai commercialisti, richieste che riguardano il coinvolgimento attivo dei commercialisti nella riforma fiscale della quale parliamo tanto, nella formazione delle norme nelle materie in cui sono esperti, quindi economia e fisco in primis, e il 7 ottobre è previsto un primo incontro con il ministro Gualtieri. In merito alla richiesta di moratoria per chi ha versato oltre il 20 agosto, il MEF ha aperto alla possibilità di un versamento entro il 30 ottobre, con un aumento dello 0,8% per chi ha registrato la riduzione di un terzo del fatturato nei primi sei mesi dell'anno. Articolo oggi sul Sole 24 Ore, pagina 21, e quindi non lo perdete sicuramente. Sì, il 20 agosto era stata appunto una delle pietre dello scandalo tra i commercialisti e il ministero, perché si riteneva che aver mantenuto quella scadenza per alcune categorie fosse un errore da parte del ministero, e adesso però finalmente pare che il ministero sia giunto a più miti consigli. Nel frattempo riapriranno le scuole, non so se l'hai sentito dire Deborah. No, credo guarda, che in ogni famiglia c'è una crisi di nervi, direi. Allora, anche il gruppo 24 ore ha deciso non di tornare a scuola, ma di fornire domani con il Sole 24 ore, appunto, in edicola. Ci sarà un fascicolo intitolato Tutti in classe, ma come? E sarà proprio un vademecum in più di 100 pagine che vuole aiutare le famiglie e i ragazzi ad arrivare preparati, soprattutto informati, per il rientro in classe. Quindi il punto della situazione sia sul fronte medico, i dispositivi di protezione, i banchi, le norme, le linee guida, le date, insomma tutti gli ambiti che vengono coinvolti. Domani appuntamento in edicola con il Sole 24 ore con questo fascicolo Tutti a scuola. Domenica possiamo leggere rigo rigo il fascicolo e lunedì accendiamo di nuovo Radio 24, magari tenete accesa anche la domenica, per carità, intanto che leggete il fascicolo, perché ci sarà il Radio Day proprio dedicato all'apertura delle scuole in 13 regioni d'Italia, se non sbaglio il numero. Allora, noi segnaliamo naturalmente tutto quello che facciamo noi qui a Radio 24, tutte le cose interessanti che scrive il Sole 24 ore. Qualche volta però incappiamo anche in qualche notizia interessante che scrivono colleghi di altre testate, ci piace segnalarle perché poi tra l'altro sono notizie che in qualche maniera riconducono un po' a battaglie che facciamo anche qui a Due di Denari, come per esempio quelle contro i serpenti corallo. E allora ne ha trovata un altro di serpente corallo il collega Leopoldo Gasbarro, che è il direttore della rivista Wall Street Italia, che naturalmente fa informazione finanziaria fondamentalmente. E questa mattina Wall Street Italia, se andate a vedere sul sito, racconta la storia di Carla, che è naturalmente un nome di fantasia, una signora che fa l'imprenditrice. Qualche mese fa ha venduto la sua azienda, si è trovata quindi evidentemente improvvisamente, ma con questa bella provvista, e ha ben pensato di metterla a frutto, non di metterla così un po', magari un po' sul conto corrente, un po' investita in maniera facendosi seguire da un consulente finanziario. Evidentemente la signora voleva avere dei guadagni un po' più facili, insomma, più facilmente. Sì, molto rapidi, attirata, perché queste sono un po' le promesse che vengono abitualmente fatte dai siti, diciamo così, dei quali sarebbe meglio non fidarsi, esatto, o comunque fidarsi solo dopo che si sono fatti 100 e magari 101 controlli. E quindi ha aperto un conto su una piattaforma di trading sul quale ha versato 90.000 euro e praticamente ha, secondo poi le persone che la seguivano su questa piattaforma, iniziato ad investire. Inizialmente le erogavano dei rendimenti periodici, naturalmente tanto per dimostrarle che effettivamente questo denaro veniva regolarmente investito, e dopodiché praticamente le richieste che lei faceva di restituzione, di riscatto di questo denaro, hanno cominciato queste richieste a non essere più accontentate. Nella sostanza, insomma, la piattaforma di trading era evidentemente un'altra di quelle truffaldine delle quali vi raccontiamo spesso. E peraltro ricordiamo che proprio due giorni fa la Consob ha oscurato ancora una volta un bel numero di siti fraudolenti, sono 11, per cui insomma state attenti, guadagni facili non ci sono, soprattutto in questo frangente, e soprattutto diffidate delle promesse di rendimento che non stanno né in cielo né in terra. Oggi non parliamo del super bonus del 110%, Deborah, però no, oggi no, facciamo un giorno di pausa, però segnalo lo stesso una cosa. Guardate, c'è ancora un decreto ministeriale che non è andato in Gazzetta Ufficiale, sta creando un po' di perplessità. È il decreto ministeriale cosiddetto dei requisiti per i lavori che poi si vogliono sottoporre all'ecobonus del 110%. Allora si continua a usare il vecchio decreto del 2008. Tutta la questione è raccontata doviziosamente da Luca Rollino oggi sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Abbiamo già anticipato però nel inserto, nel fascicolo che è stato diffuso in agosto e che è ancora reperibile per gli abbonati sul nostro sito internet, ecco, abbiamo già anticipato i contenuti del nuovo decreto. Per adesso quello del 2008 contiene dei requisiti, diciamo così, più favorevoli. Adesso noi abbiamo un appuntamento con Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, per dare risposta a un ascoltatore che ci aveva interrogato a dirlo a Due di Denari. Possiamo risentirlo? Dillo a Due di Denari. Buongiorno cari Due di Denari, avrei una domanda da rivolgervi. Io lavoro per un'azienda privata che ha il conto proprio, che trasporta anche merci pericolose, quindi necessita la patente ADR. Vorrei sapere, per il rinnovo, che è ogni 5 anni, il costo è da debitare, il costo della patente è da debitare all'azienda o al lavoratore? E le ore che ci vogliono, che sono circa 35 ore di corso, anche quelle, se mi potete dare una risposta nei prossimi giorni, vi ringrazio già da adesso. Noi ieri ci siamo inventati una risposta, naturalmente, ma promettendo che avremmo immediatamente chiamato in un modo ignobile. Esatto. Allora chiediamo scusa, professionale, soprattutto all'esperto che abbiamo convocato, cioè Sergio Lomonte, come ho detto, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Grazie di aver accettato il nostro invito, Lomonte. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, che cosa dobbiamo rispondere a questo ascoltatore che vuol sapere? Ma è qui chi paga il corso e le ore, come ci dobbiamo regolare? E che cos'è questa patente ADR, Lomonte? Sì, intanto una piccolissima premessa: io godo del beneficio di inventario perché non ho sentito la vostra risposta di ieri, quindi andate. No, io ne ho dato una di buonsenso, Lomonte, nel senso che ho detto magari ecco, queste condizioni forse vanno pattuite all'inizio di un rapporto con l'azienda per la quale lavori, magari l'azienda no. Sì, diciamo che può essere una risposta di buon senso, di logica, però ecco, io mi sento di dare subito una risposta immediata per come va anche il mercato, no? Per quello che registriamo sui territori, dalle nostre imprese associate, il costo di questo patentino è a carico del lavoratore. E spiego subito il perché. Essendo una formazione professionale specifica, quello per il trasporto delle merci pericolose, regolata tra l'altro da un accordo internazionale di matrice UE, ma poi estesa anche ad altri paesi, regolamenta appunto una specializzazione nel trasporto, non è una guida base per cui l'impresa deve avere dei requisiti specifici, ma attiene proprio alla soggettività del soggetto, del conducente autista che poi viene impiegato per questa tipologia di trasporto, quindi è una caratteristica intrinseca all'attività dell'autista. Non è una specializzazione dell'impresa. Il patentino è appunto quell'abilitazione che l'autista consegue dopo aver fatto un corso e dopo aver superato un esame, per cui rimane a lui quella specializzazione, non è che l'acquisisce l'impresa. Lui quindi sarà titolato al trasporto di quelle merci pericolose. Il corso posso anche dare per il nostro intervistatore, per chi ha posto la domanda, qualche altra nozione, in quanto il corso di rinnovo di cui lui parla è un corso che avviene a seguito appunto di un patentino già conseguito, ma abbiamo anche un primo conseguimento. Le ecco, materie sono quelle di un corso base, più le specializzazioni che via via si vogliono conseguire. Abbiamo una specializzazione per il trasporto in cisterne, una specializzazione rispetto al materiale esplosivo ed una specializzazione riguardo al materiale radioattivo. Quindi, come vedete, parliamo veramente di una nicchia di mercato e di una estrema professionalizzazione riguardo il conducente autista. Ma ecco, il nostro ascoltatore si domandava anche come faccio per le ore, che faccio, segno un'assenza, mi metto in ferie? 35. No, le ore non sono 35 come indicava, probabilmente il nostro radioascoltatore avrà confuso con un'altra tipologia corsuale che è la CQC, la carta di qualificazione del conducente, che purtroppo sì, deve conseguire anche quella, quindi ci vuole una patente di base che è quella che conseguiamo tutti, può essere anche una patente D, non per forza una D che è quella del trasporto professionale, una CE, ma appunto anche con una B per una furgonatura per esempio con cui si effettua quel trasporto, quindi sotto i 35 quintali, oppure con un mezzo pesante cosiddetto per cui ci vuole un'altra tipologia di patente, comunque necessita sempre della CQC che è la carta di qualificazione del conducente per il cui rinnovo ci vuole un corso di 35 ore e poi il patentino, il CFP, il certificato appunto di formazione professionale ADR, questo accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose, che si consegue a seguito di un corso di circa 22 ore. Mi ripeto, c'è il corso base di 13 ore più 9 ore o 6 ore a seconda della specializzazione di cui parlavo. Quindi abbiamo un totale, così in generale per dare una risposta secca, di 22 ore di corso, a seguito del quale bisogna però fare l'esame. È un esame che bisogna passare, perché se non si risponde, un po' come gli esami che abbiamo fatto tutti, no? Con le famose crocette, l'esame in motorizzazione, si rischia ovviamente di non poter più operare, quindi l'autista può anche rischiare di rimanere fermo dal proprio camion. Ecco, ma lui deve, come dire, mettersi in ferie per sostenere queste ore, o deve sostenere queste ore non in orario di lavoro, mi immagino? Deve sostenerle in un orario che non sia lavorativo. Solitamente noi che siamo enti autorizzati come Confartigianato Trasporti, i nostri enti su tutto il territorio nazionale, oltre ovviamente alle scuole guida, enti autorizzati alla formazione di questa tipologia di trasporto, organizzano le corsualità nelle giornate del sabato e della domenica, durante le quali appunto vi è solitamente un blocco delle attività per il trasporto delle merci. Quindi bisognerà rivolgersi a qualche ente specializzato, ripeto, senza fare alcuna pubblicità, sui territori si trovano anche quelli delle associazioni di categoria, tra cui quella che rappresento. Allora il nostro radioascoltatore potrà lì presentarsi, richiedere tutte le informazioni del caso ed iscriversi ad un corso in partenza, no? Perché poi si organizzano anche in base al numero di soggetti che vogliono conseguire il rinnovo del patentino. Io però mi permetto di fare un appello, se voi me lo consentite, in questo importante può concludere il collegamento con l'appello, ci dica. Grazie. Di che appello si tratta? È stata una ottima domanda quella che ha fatto il nostro radioascoltatore, per sollevare ancora una volta la necessità dell'estrema professionalizzazione e formazione dei conducenti autisti, perché soprattutto in queste specializzazioni del trasporto merci pericolose, di cui non tutti sono a conoscenza, ma che viaggiano per il 95% su gomma, e quindi immaginiamo la pericolosità, c'è veramente necessità che ci sia grandissima attenzione per evitare tragedie come quelle che ci sono state in ambito ferroviario, con i ben noti incidenti, e stradali come l'ultimo dell'anno scorso, mi pare, dalle parti di Bologna, che ha provocato l'esplosione di una cisterna. Sì. Esatto, talvolta purtroppo anche i mass media rilanciano notizie, no, in cui si esaspera magari la colpa dell'autista al volante, ma ricordiamo che dietro a quel trasporto lì c'è un'estrema professionalizzazione dei conducenti, e dobbiamo sempre fare in modo che questa si sviluppi e prenda, si mantenga, e prenda adeguata corpo. Naturalmente, esatto, certo, anche per il tipo di lavoro. Grazie. E l'impegno che richiede. Grazie a Sergio Lomonte, stradale e sociale. Grazie mille a Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Adesso, prima di passare allo speed, naturalmente il momento delle... Un sacco di domande, tra l'altro, te lo dico già. Qua sto monitorando WhatsApp, si sono scatenati gli ascoltatori. Ma lo sapevo, mi piace vincere facile. Le borse. Ritroviamo il senso dell'uomo nonostante la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... di denari. The Desert Seeds of the Lion PS, Mythosi 100 euro Lion PS. L'abbiamo rispolverata, che è bello! È colpa mia, lo so. No, io chiedo scusa perché dobbiamo parlare di una cosa serissima e già ci sono tantissime domande. E vabbè, dai, è venerdì. Cioè, il passaggio dal PIN dispositivo all'INPS allo SPID, il servizio pubblico, il sistema pubblico di identità digitale. Parte tutto il 1 ottobre, naturalmente, però devo dire che non è che abbia trovato tantissima informazione in circolazione su questo passaggio, eppure mi sembra fondamentale, soprattutto per una certa fascia anagrafica, ma ci arriviamo adesso con calma. Guarda, allora subito giriamo la questione al dottor Rocco Lauria, che è direttore centrale dell'organizzazione e comunicazione all'INPS. Quindi le scuse per aver utilizzato la Sora Cesira che canta INPS al posto di YMCA, e poi naturalmente anche per chiedergli, insomma, come pensate di gestire questo passaggio che non mi sembra di poco momento. Benvenuto innanzitutto, dottor Lauria. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì. Allora, come farete più comunicazione, intensificherete le informazioni agli utenti, farete delle campagne particolari per accompagnare questo passaggio dal PIN allo SPID? Certo. E soprattutto perché si rende necessario, dottor Lauria? Sì. Allora, noi abbiamo, come dire, dato istruzione a tutta la nostra struttura territoriale in primo luogo. Abbiamo fornito le istruzioni a tutte le nostre sedi che, come sapete, sono oggi fisicamente anche aperte, quindi il nostro canale, diciamo, fisico sta dando già, diciamo, informazione al riguardo. Poi abbiamo pubblicato anche una circolare specifica e abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, diciamo, di attivare anche uno spot, diciamo, specifico che dovrebbe partire, diciamo, in questi giorni. Solo che c'è anche in concomitanza, diciamo, la campagna sul referendum, e quindi abbiamo avuto un po' di rallentamento. Avete la concorrenza del referendum, sì, dottor Lauria. Sì. Vabbè, questione di pochi giorni. Beh, però poi il referendum, il 20, al 1 ottobre ci saranno pochissimi giorni e dovrete fare un sacco di spot. Quindi. Sì. Allora, ma però perché? Abbiamo capito questo, scusami Deborah, perché abbiamo capito questo, dottor Lauria, che succederà così. Io che ad esempio ho il PIN dispositivo presso l'INPS, non lo vedrò azzerato dal 1 ottobre, cioè potrò continuare a usarlo, solo che voi dal 1 ottobre non rilascerete nuovi PIN dispositivi, ho capito bene? Ha capito benissimo, quindi dal 1 ottobre che cosa succederà? Riguarderà il futuro, noi abbiamo immaginato questo, diciamo, percorso insieme, come dire, all'AGID, al Ministero del Lavoro e al MID in due fasi, tra l'altro poi è intervenuta, come sapete, la norma, quindi abbiamo l'articolo 24 del decreto semplificazione, ma la nostra decisione, diciamo, collettiva in collaborazione appunto con il governo era stata, diciamo, adottata prima, quindi dal 1 ottobre noi non rilasceremo più il PIN INPS, il PIN, diciamo, proprietario, diciamo, questa, quei codice, diciamo, di accesso dei, proprietario, ma tutti i PIN, diciamo, oggi attivi, che sono circa 27 milioni di PIN, in realtà rimarranno appunto a disposizione, diciamo, degli utenti e potranno essere, diciamo, utilizzati. Fino a quando? Perché questo, diciamo, presumo anche la domanda. Esatto, era la domanda successiva. La domanda hai indovinato. Noi non abbiamo indicato volontariamente, diciamo, una data, diciamo, di scadenza, perché vorremmo gestire cautela questo periodo di passaggio, anche se la norma di legge in realtà un termine finale lo individua, che è quello del mese di settembre del 2021, quindi come minimo, diciamo, ci sarà un anno in cui questi 27 milioni di PIN potranno essere usati e se scadono potranno essere, diciamo, rinnovati, quindi non ci deve essere nessuna paura di perdere il collegamento, al pericolo di perdere, sì, la possibilità di accedere ai servizi. Questo non succederà in maniera, diciamo, assoluta, già la norma lo prevede. Noi volontariamente non abbiamo indicato una data di scadenza dei PIN, diciamo, attivi in circolazione. Una circostanza, Mauro, che immaginiamo darà un forte impulso alla crescita, alla diffusione dell'identità digitale SPID. Chissà se già qualche cosa si è notato, lo chiediamo ai diretti interessati. Stefano Arbia, responsabile del progetto SPID per AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. E allora, questa circostanza, come dicevo, il fatto di dover passare dal PIN dispositivo alla SPID, secondo lei in qualche maniera già movimentato un po' il comportamento degli italiani, oppure, visto che era necessario avere la SPID per il bonus mobilità, per il bonus vacanze, qualche fermento si era già notato nei mesi passati, dottor Arbia? Ma sicuramente si è notato molto fermento. Consideriamo che siamo passati da circa 70.000 richieste del mese di gennaio a quasi 300.000 del mese di luglio, settimanali. Quindi i cittadini stanno richiedendo sempre più attivamente lo SPID. Si vede anche nell'ambito dell'utilizzo. Se consideriamo che nell'intero 2019 le identità digitali SPID sono state usate 55 milioni di volte per accedere a servizi online, questo numero, 55 milioni, già è stato raggiunto a fine luglio, inizio agosto. Certo. Lo SPID, per avere lo SPID è necessario partire dal vostro sito, giusto? Questo è il punto, il primo passo da fare, dottor Arbia. Sì, c'è un sito tematico che è www.speed.gov.it. Speed.gov.it, scusi, lo ripeto perché così sia chiaro a chi magari non l'ha ancora attivato, speed.gov.it, prego, scusi se l'ho interrotta. Esatto, e lì c'è un tasto richiedi SPID che ci porta su una pagina in cui sono elencati tutti e 9 i soggetti abilitati, autorizzati a fornirci lo SPID. Come scegliere quello più consono alle nostre esigenze? Tenendo presente che da un punto di vista di sicurezza sono identici. lo scegliamo in base agli strumenti che noi gradiamo utilizzare. Ad esempio, se non volessimo utilizzare, installare sul nostro telefono un'app e quindi volessimo ricevere i codici di autenticazione usati durante l'accesso ai siti online tramite un SMS, andremo a vedere nella colonna, appunto, invio del codice OTP anche via SMS, i gestori che danno questo servizio. Il codice, scusi dottore, dottor Lauria Garbia, ma allora il codice OTP è la cosiddetta one time password, cioè è un numero che ci viene inviato solo nel momento in cui disponiamo l'operazione. Ci serve per il conto online, per esempio, no? Esattamente. Prego. Esattamente. Prego, dottor Garbia. Sostanzialmente prevede diversi livelli. Nel livello cosiddetto 1, il livello di autenticazione di accesso al servizio lo sceglie il fornitore del servizio stesso, quindi l'INPS ad esempio, è previsto che io vada a inserire solamente una password. Se viene richiesto un accesso con il livello 2, ed è il caso del portale dell'INPS, mi viene richiesto l'inserimento della password e poi appunto questo secondo codice che, a seconda della mia scelta, può arrivarmi via SMS o posso evitarlo utilizzando un'app installata sul mio telefono cellulare, sia Android che iOS. Allora, intanto altri temi delicati. Il costo di tutta questa operazione, perché c'è chi contesta questo fatto. Il PIN dispositivo era gratuito, richiederlo e ottenerlo. La SPID, devo sostenere qualche spesa per poterla chiedere. E poi ci sono appunto molti ascoltatori che chiedono come possono fare le persone anziane, che chiaramente con la materia digitale sono un po' meno pratici. Arbia, da che cosa vuole partire? Dai costi. Allora, sempre su quella schermata dove siamo plana di prima, abbiamo una colonna che ci fa capire le modalità di rilascio. Tutti i gestori devono avere almeno una modalità di rilascio gratuito dello SPID al cittadino, e in particolare ce ne sono alcuni che prevedono un costo per il riconoscimento tramite webcam, cioè nel momento in cui io non voglio recarmi presso un ufficio o non ho la disponibilità di altri strumenti, di altre identità precedenti, quali ad esempio la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, posso prenotare un incontro online con un operatore di uno dei gestori per fare il video riconoscimento. Allora, sulla lista sono elencati i soggetti che svolgono questa operazione gratuitamente e quelli che invece che richiedono un pagamento. Quindi è possibile trovare un percorso di riconoscimento e di attivazione dello SPID gratuito. Questo è quello, se uno guarda appunto tra le varie opzioni disponibili. È il 45esimo, Deborah, ci fermiamo un momento per la viabilità, vedo che tantissimi ci state scrivendo, ci state domandando, quindi ritorniamo subito qui a parlare di SPID a Due di Denari. Prendete i mezzi, fate il carpooling. Due di Denari. Give them to the birds and the bees. I need them money. That's what I want. Tua chitarra trafugata, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Deborah, esatto. Da quale ascoltatore o ascoltatrice vuoi cominciare? Allora, intanto vorrei salutare Emilio, un ascoltatore non vedente, che ci dice come si fa per avere lo SPID. Grazie se vorrete soddisfare la mia richiesta. Allora, abbiamo spiegato tutta la modalità, ma magari per qualche persona con disabilità c'è un percorso, Arbia, un po' più semplice. Avete magari un numero verde a cui poter rivolgere le vostre domande per persone che appunto hanno qualche difficoltà di questo tipo? Abbiamo un servizio di help desk online su cui è possibile scrivere da sempre tramite il portale SPID, ma ogni gestore dell'identità ha un proprio help desk, help desk che viene usato abitualmente da persone in difficoltà per diverse ragioni. Prima avete citato gli anziani, che sono soggetti che fanno largamente uso di questo aiuto telefonico. Tra l'altro, senta, adesso non è per fare pubblicità, ma è anche proprio per capire qual è quello più utilizzato, se si può citare il nome di uno degli provider, appunto, che dei 9 attualmente Poste immaginavamo. No, gliel'ho chiesto perché me lo potevo immaginare. Diciamo che si può anche andare a uno sportello delle Poste per poter fare tutta la procedura. Ecco, magari al nostro ascoltatore non vedente, gratuitamente, che deve lasciare in questo caso, ma ecco, per gli anziani in particolare difficoltà, Poste prevede prevede anche che l'invio di un incaricato a domicilio. Ecco, appunto, quindi è proprio con spirito di servizio che ho fatto questa domanda, non per favorire qualcuno rispetto ad un altro. E quindi anche per il nostro ascoltatore Emilio potrebbe ricorrere magari a questo servizio delle poste che consentono. Forse anche un altro ascoltatore che avevamo in linea. Anche via webcam lo può fare tranquillamente. Sicuramente è attrezzato per poter utilizzare il computer. Sono molto più bravi dei nonni ipovedenti ad utilizzare il computer. L'ascoltatore dice di essere non vedente, quindi completamente non vedente. Quindi, però c'è questa possibilità di sentire allora le poste. Speriamo di avere così soddisfatto la curiosità, la richiesta di Emilio. Sai che c'è Roberto che ha una richiesta infatti interessante, abbastanza interessante. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Prego. Sì, la sentiamo. Allora, io a fine gennaio, primi di febbraio, ho richiesto logicamente lo SPID tramite l'INPS e infatti i provider erano 5-6 e ho scelto Poste. Però dopo è sorto il Covid, per cui sono stati chiusi tutti gli uffici. A questo punto la mia richiesta è... Chissà dove è finita, dice lei. Appunto, volevo chiedere al vostro esperto, devo rifare tutto oppure devo cercare di entrare dopo 6 mesi su quella proposta? Tra l'altro vedo che i provider non sono tanti, Poste, InfoCert, Namedia, Speed Italia... Sono nove, insomma, dai Roberto, non Aruba, è che sei... Aruba, Silte, sono sul sito dell'Agile, che ne vedo... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 Roberto, l'abbiamo detto. Aspetti lì, facciamo rispondere. Arbia, la domanda interrotta a causa Covid, insomma, deve essere ripresentata oppure può ripristinare il percorso interrotto il nostro ascoltatore? Ritengo che possa riprendere il percorso interrotto, però a causa del Covid evidentemente aveva scelto la modalità di verifica dell'identità a sportello. Durante il periodo Covid ha avuto grande rilancio la modalità via webcam, in maniera tale che da casa, anche con un telefono cellulare, sia possibile, così come facciamo un audio video con un figlio, un amico, eccetera, fare un audio video con un operatore e ottenere speed. Quindi potrebbe anche ripetere, qualora non volesse recarsi fisicamente presso un ufficio, la richiesta indicando appunto la modalità di verifica tramite webcam. Volevo tornare un istante dal dottor Lauria, il direttore centrale dell'organizzazione della comunicazione di INPS. Per quanto riguarda appunto il rapporto con i futuri utilizzatori, voi avete immaginato già di diffondere, non so, quando uno fa una prima richiesta all'INPS, già un'istruzione per dirle di dotati dello SPID, comincia già da ora, non aspettare il 1 di ottobre, eccetera? Ma in realtà è già così, cioè noi i nostri sistemi informatici sono da anni, come dire, abilitati a accettare le domande ed a usare, diciamo, le credenziali dello SPID. Quando si accede ai nostri sistemi, in realtà l'utente ha a disposizione, come dire, diverse strade. Una era appunto il PIN, ma noi abbiamo abilitato da anni i nostri sistemi sia allo SPID, sia, non dimentichiamolo, anche ad altre, diciamo, credenziali di accesso come la CNS e il CIE. Quindi diciamo, i nostri utenti lo sanno. Perché il CIE, cioè la carta d'identità elettronica, sì, perché ovviamente, come dire, ci sono anche questi due diciamo, sistemi che vanno bene pure lo stesso, diciamo, oltre allo SPID. Senta, faccio una domanda da ascoltatore, me lo consenti Deborah? Sì. Sono Mauro, chiamo da Milano. Prego. E avendo già il PIN dispositivo dell'INPS, se da domani comincio a usare lo SPID, faccio un pasticcio? Cioè rischio che il sistema non mi riconosca? Ha fatto una domanda, intanto cerca l'interlocutore. Scusate, non ho detto la domanda anche, ovviamente per chi era? È per Rocco Lauria, per il direttore INPS. Scusi Lauria, non l'ho precisato. Per la nostra, diciamo, succede, nel senso che vi ho detto prima che noi abbiamo 27 milioni di PIN attivi. È probabile, io non lo so quanti siano, ma sicuramente ci saranno tante persone che hanno anche lo SPID, quindi i due sistemi non sono in conflitto, assolutamente a vicenda. Poi, ma questo lo dirà forse il dottor Albia, lo stesso SPID non è, diciamo, esclusivo, si possono avere anche più identità digitali. Anche perché se non parlassero tra di loro veramente si vanificherebbe tutto lo sforzo di far dialogare un po' tutta la pubblica amministrazione, no Arbia, che dice? È assolutamente così, posso testimoniarlo anche da utente, da cittadino che accede al portale dell'INPS. Io accedo abitualmente, a secondo di dove mi trovo, o col PIN se utilizzo un portatile in cui ho la password, piuttosto che con lo SPID, ad esempio, da telefono cellulare. Faccio un altro esempio, qua andiamo ancora avanti a conflitto di interessi. La mia mamma ha il PIN dispositivo, chiaramente, a meno che non mi ci metta io, lo SPID avrà un po' di difficoltà a farlo, utilizza il PIN dispositivo quando va, per esempio, al CAF per la dichiarazione dei redditi e loro sono lì abilitati ad utilizzare il PIN della mia mamma. Andando ad un centro di assistenza fiscale possono aiutare per fare anche l'identità digitale e Arbia? Sì. Sicuramente sì, ci sono molti CAF che svolgono questa attività. Bene. Vorrei approfittare, sono state citate la CIE e la CNS, che sono altre, come ha detto giustamente Lauria, altri due modalità di dimostrare la propria identità in rete, sono anche strumenti molto utili e usati per ottenere lo SPID online. Cioè io posso tramite la CIE o la CNS dimostrare a uno di quei 9 soggetti chi sono e questo mi rilascia direttamente l'identità digitale SPID. Scusi, spiego le sigle. CNS è la tessera nazionale dei servizi, la tessera sanitaria dove ci sta il codice fiscale, e la CIE è la carta d'identità elettronica. Esatto, una domanda al volo, Arbia. SPID dall'estero, per chi risiede all'estero, può chiederlo serenamente? Può chiederlo serenamente qualunque soggetto che sia dotato di un documento di identità rilasciato da un'autorità italiana e in possesso o della tessera sanitaria o per appunto per gli italiani residenti all'estero del tesserino del codice fiscale. Andrea da Milano voleva chiedere ai genitori con deambulazione difficoltosa cosa devono fare per avere lo SPID, speriamo di aver risposto, c'è persino il servizio a domicilio eventualmente delle poste italiane, delle Andrea, poste. Esatto. Io chiedo ai nostri due ospiti, Stefano Arbia, responsabile del progetto SPID per l'Agenzia per l'Italia Digitale, e Rocco Lauria, direttore centrale dell'organizzazione e comunicazione INPS, restate a disposizione perché dalla quantità di domande capiamo che c'è ancora molto, molto da chiarire. Grazie. Grazie ad entrambi. A voi. Mauro, a presto. Buon fine settimana. Anche a te, Deborah. Grazie. A presto, buona giornata a tutti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.